Allora, poco prima di cominciare, ci tenevamo a dire come compagne e compagni che in questo festival è attivo il punto Lila, che è un punto di lotta e cura della comunità. È un banchino che trovate all'ingresso perché vogliamo essere un festival accogliente dove troverete sia informazione e punto d'ascolto sulle pratiche transfemministe. Perché anche questo festival voglia essere il più aperto possibile e che non tollera appunto atteggiamenti oppressivi di nessun tipo, molestie o altre dinamiche non consensuali. E naturalmente lì è un punto sia di ascolto e di supporto e ci teniamo a proseguire la lotta del rumore, anche di non una di meno, fatta in questi giorni per Ilaria, per Sara e per tutte. E ho qua davanti anche la Venere, perché vogliamo appunto, come è stato supportato nelle piazze per fare rumore, che vogliamo giustizia da vive, non ergastoli da morte. Non siamo per le carceri o per le pene più severe, ma serve che tutta la vita e tutte le vite cambino e che si segua una cultura più accogliente, più aperta e verso un altro modo di sentirsi veneri, donne, transfemministi e qualsiasi cosa si voglia essere. Ma dobbiamo veramente cambiare tutto. Quindi il noi saremo tutto è anche a supporto di questo. Mentre venivo qua, sul treno c'era una lavoratrice nera che stava urlando al telefono e tutti sul binario le dicevano di abbassare il volume perché urlava troppo. Io mi sono girata perché mi sono impressionata dal rumore che faceva, era al telefono e stava discutendo, non so bene con chi, ma diceva che era da 2 giorni che non vedeva la figlia di 18 mesi perché era stata costretta a stare al lavoro e non aveva l'auto, veniva da Vernio, dalle montagne, e per 2 giorni aveva lasciato la figlia più piccola a badare a quella ancora più piccola. E urlava perché non le restituivano l'auto e diceva: io l'ho pagata 8.000 euro questa macchina usata e voi mi dovete riportare da mia figlia che non vedo da 2 giorni. Quando il treno e il vagone ha capito la storia, e mi sono girata perché io poi dovevo venire qua, dovevo scendere, ho visto che c'era un campanello di gente a aiutarla e a guardare sul telefono dove era la macchina, dove era il meccanico, dove trovare il numero, come aiutarla per trovare l'autobus. Insomma, ho detto: cavolo, ma allora c'è speranza, per questo noi saremo tutto e per questa solidarietà che si può trovare. Sono scesa al volo e io non l'ho potuta aiutare, ma questo intervento e questo panel lo voglio dedicare a lei, che non può esserci perché deve ritornare dalla sua figlia di 18 mesi. In questi giorni, per preparare questo panel sulla scrittura working class e i generi letterari, ho provato, visto che c'erano state varie polemiche sulle chat GPT, sull'intelligenza artificiale o quando a volte l'utilizziamo per fare volantini o per cercare informazioni o per fare prima, a volte nella fretta che ci troviamo tutti quanti, ho chiesto alla chat se sapeva cos'era la letteratura working class e i generi, per vedere se trovavo un aiuto anch'io, visto che ne facciamo 2000 tutte insieme, no? Però visto che la definizione o gli autori che citava, o anche i generi o anche le forme, erano quelli relativi al passato, ho detto: cavolo, dopo 2-3 anni di questo festival, dopo i 3 anni e mezzo di lotta del collettivo della GKN, siamo ancora con i soliti autori, molto spesso inglesi, americani, del secolo scorso, ma non si fa nessun riferimento a quanto nel dibattito siamo avanzati anche cercando di definirla un po', questa letteratura working class. E parlando di generi, ci arriviamo. Io quando ho scritto, la cosa principale del mio esordio è stato chiedermi perché non ci avessi messo una storia d'amore. E mi sono ritrovata subito con la prima domanda sul genere rosa, perché se una donna scrive, anche se viene da una famiglia lavoratrice, figlia d'operai, eccetera, non ci mette comunque, anche dentro una lotta, dentro una vertenza, dentro un immaginario, una storia d'amore. Quindi io sul genere, sui generi, mi sono scontrata subito con queste domande. E però, appunto, nell'evoluzione di dire sì, siamo noi che ci vogliamo raccontare, venendo dalla working class, essendo figli di operai, però non c'è solo questo. Ci sono anche tanti generi che cerchiamo di intaccare o di farci rappresentare. E stasera ne voglio parlare qua con me, insieme ai nostri due ospiti, Sergio Quadrupani, che viene dalla Francia, e Wuming 4, Federico, che viene da più vicino, ma hanno sempre valicato le Alpi e l'Appennino. Qui loro, naturalmente, per i vari generi che hanno affrontato, da una parte abbiamo il noir, la finzione e il giallo, e dall'altra abbiamo il romanzo storico, la fantascienza, il perturbante, ma anche un lavoro collettivo. Quindi mi volevo un po' chiedere, partendo da Serge, che non soltanto è scrittore ma anche traduttore, e quindi diciamo nella doppia veste sia di scrittore che di traduttore dell'ingresso nel mondo editoriale, come ha vissuto lui l'approccio alla letteratura working class, al noir, al giallo, se ci sono stati anche dei pregiudizi su questo genere narrativo, e se cosa ha trovato come ostacolo o anche come accoglienza o sorpresa in questo suo percorso. Allora, non è molto facile cominciare a parlare adesso, dopo aver sentito tutti questi discorsi e anche la voce di Gaza e anche tutto quello che tu hai appena raccontato. Io mi sto pensando tutte queste realtà così schiaccianti, così forti. E poi io arrivo con i miei piccoli libri, le mie piccole storie, ma cercherò di essere un po' interessante per voi, un pochino. Secondo me la letteratura working class, secondo quello che so della letteratura in Francia, non è che sia una realtà molto presente, è un po' un fantasma, perché è diventato di moda adesso nella letteratura francese parlare dei transfuges, sono quelli che vengono dalla classe operaia, ma poi vengono per raccontare la classe operaia ai borghesi, ai piccoli borghesi francesi, per raccontare com'era orrenda questa vita, che questa gente era più o meno omofobi, erano ubriaconi, erano pesanti, eccetera. C'è stato tutto un filone così che è stato molto sviluppato in Francia, ma poi c'è stato anche uno che ha rotto questo ambiente, questa atmosfera, è stato Joseph Montus, che era un amico mio, che ha scritto questo libro che si chiama La linea, e alla linea in italiano, dove lui racconta la vita in un mattatoio. Lui ha lavorato in un mattatoio. E poi, riflettendo Poi devo dire che il tema della letteratura working class io l'ho scoperto traducendo uno scrittore che forse conoscete un pochino, che si chiama Alberto Brunetti, e lui ha, poi mi ha fatto ridere perché sempre la stessa cosa in italiano, quando racconta agli amici francesi: io vado a un festival di letteratura working class, e già il fatto che c'è una parola italiana e due parole inglesi è una cosa che turba un po' la mente francese, che ma poi ogni volta devo spiegare che che sì, è vero che l'Italia è stata colonizzata dagli americani, ma è vero anche l'inverso, perché l'America è stata in gran parte colonizzata dagli italiani, quando si pensa che ci sono anche le pizza di Chicago, qualunque, una cosa orrenda che non so se avete mai avuto l'occasione di scoprirle. E questo tema della working class e anche per me è un po' come, non so se la parola esiste in italiano, intempestivo, non è perché non corrisponde allo spirito del tempo. L'operaio, la figura dell'operaio, dove è finita? Esistono ancora degli operai? Quando leggi la letteratura di oggi, dove sono finiti gli operai? Invece la gente ancora si siede su una sedia che è stato fabbricato, si spara in un microfono che è stato fatto, una cosa concreta che è stata fatta. Non tutto è sugli schermi. Non tutta la realtà è finita sugli schermi, c'è ancora una realtà concreta che dipende molto dai lavoratori. È vero che i lavoratori sono stati trasportati altrove, ma ce ne sono ancora un pochino, qui lo vediamo. E dunque io a me, pensandoci, ho pensato che anche nei miei libri, nei miei romanzi, questo fantasma della classe operaia, perché io sono figlio di operai anch'io, la mia mamma lavorava nelle cucine di uno stabilimento religioso e mio padre era operaio all'arsenale, ma poi sono piuttosto come il personaggio della seconda parte della trilogia di Alberto, cioè quello che scappa in un certo modo alla condizione operaia tradizionale, quello che ha cercato di fare i piccoli lavori intellettuali, anche piccoli lavori. Io ho fatto il benzinaio, e poi ho scritto un romanzo, ho fatto un po' di tutto. Ma i libri che ho scritti, gli operai non erano la figura centrale, ma c'era sempre il problema dello sfruttamento capitalista, anche dello sfruttamento della natura, anche dello sfruttamento degli animali. E poi alla fine uno dei miei libri, quello che non a caso è stato reeditato qui da Allegre, parla di una storia di un ragazzo che mi rassomiglia in gran parte e che ha provato che ha creduto a una certa epoca, cioè nel 68 e dopo il 68, che le cose potevano essere cambiate profondamente, e l'ha creduto con altri amici, ma poi lui era l'unico che era veramente di origine operaia. E poi mentre l'operaio era in questa epoca la figura centrale, quella che ci doveva portare la liberazione, potevamo contare sugli operai, che erano gli unici che potevano cambiare tutto, perché potevano fermare la macchina capitalista, e dunque c'erano quattro ragazzi, quattro. c'era un ragazzo che era di origine napoletana, una ragazza e altri due ragazzi, e le tre altre erano di origine borghese, e poi vogliono fare una rapina per la causa. Era l'epoca in cui si pensava che si poteva prendere in questo modo i soldi dei padroni, e poi la rapina va male, finisce male, e chi si ritrova in galera per 20 anni e il ragazzo di origine napoletana, ovviamente. E quando lui esce della galera, torna a chiedere qualcosa, e questo è la trama del romanzo. Non vi racconto tutto, ma questo ragazzo che viene a chiedere qualcosa agli altri, che nel frattempo si sono tranquillamente tornati nella loro classe, sono agiati, hanno una vita borghese molto tranquilla. Lui torna a chiedere a loro qualcosa, e per me questo ragazzo che torna a chiedere qualcosa è una certa maniera l'incarnazione di questa domanda: ma cosa abbiamo fatto della nostra vita? Noi che abbiamo creduto in questa possibilità, che abbiamo creduto che gli operai potevano liberare il mondo, voi che cosa avete fatto nel frattempo del mondo? E poi la realtà è che rassomiglia molto a una realtà francese, ma anche, penso, anche italiana, cioè tutti questi gruppi in una certa epoca degli anni 70, c'erano i capi, spesso i capi erano intellettuali, e poi c'erano quelli di sotto, e noi abbiamo avuto in Francia questi capetti maoisti, che sono poi diventati capi di giornale, che sono diventati scrittori di successo, e poi alla base c'erano dei ragazzi che sono rimasti così un po' interdetti, vedendo che la rivoluzione era rimandata, e loro avevano perso tutto, perché avevano dato tutta la loro vita per una causa che si era sfacelata. E dunque questo personaggio del mio romanzo, che si chiama La breve stagione, non a caso, è per me un po' il simbolo di questa storia della working class dagli anni 70 fino alla nostra epoca, e bisogna riflettere a che cosa è diventata questa working class e qual è l'etica che dobbiamo ancora conservare, e la vediamo qui all'opera, e dobbiamo approfondire questa etica. Grazie Sergio, poi ci torniamo. E ora sì, sentirei appunto Federico Vuminga 4, sia su appunto sui generi che hanno affrontato come collettivo, come Vuming, e anche come autore singolo, se appunto c'è una forma privilegiata per raccontare la working class, se c'è un genere privilegiato, forse generi che invece non hanno come dire, la giusta attenzione rispetto, che so, al romanzo che a lungo è stato, come dire, terreno di conquista della borghesia. Io ricordo ancora piccolina quando ho letto alcuni romanzi di Pratolini e improvvisamente ho scoperto che si poteva scrivere anche di piccoli quartieri di Firenze, o che ci potessero essere dei protagonisti come Metello, quindi un lavoratore edile molto semplice, perché fino ad allora avevo letto tutte storie di grandi famiglie nobili e borghese, quindi si parlava del grande romanzo dell'Ottocento, e finalmente poi nel Novecento si iniziano ad ascoltare anche altre storie. Insomma, se ci sono sia generi che invece magari non sono stati attenzionati su questo, se ci sono strade che si vedono cambiare, anche perché dicevamo in questi 3 anni ne abbiamo ragionato molto che cosa è e cosa non è letteratura working class, e io direi anche che è una definizione work in progress, che fortunatamente non vuole stare in degli stalletti definitivi, perché ogni volta che ci rinchiudono in uno stalletto bisogna poi alla fine cercare di romperlo. Spesso, almeno a me, mi hanno definita la scrittrice figlia di operai, la scrittrice del Mugello, la scrittrice dell'Appennino, la scrittrice di periferia, cioè, gira ogni volta c'era una definizione sempre per metterci in un margine, no? O comunque di contrapporci a qualcosa. Ecco, come è invece il lavoro del collettivo Vuming, come è il tuo Federico, il vostro, e cosa ne pensi su questo? Per certi versi è anche una domanda un po' imbarazzante. Quando mi hanno invitato a venire qui ho cominciato a riflettere sulla tematica di questo dibattito, e in realtà, invece che trovare delle risposte, sono venute un sacco di domande, ho cominciato a riflettere sul dibattito stesso, sui termini stessi del dibattito, perché continua a sfuggirmi, continua a esserci qualcosa che non mi torna, ecco, nei tentativi appunto di definizione che tante volte stanno stretti, come appena ricordato, diventano quasi delle etichette di comodo che servono anche a marginalizzare in un certo senso, o comunque a incasellare, ok? Che diavolo è la letteratura working class? Intanto è vero che usiamo questo termine inglese, che ai francesi sta un po' sui coglioni, perché in realtà facciamo riferimento appunto quantomeno a un certo tipo di letteratura nata nel secolo scorso, sul finire degli anni 50, ecco, diciamo in Gran Bretagna, ai primi grandi romanzieri appunto che venivano dalla classe operaia, che so, Alan Sillitoe, David Storey, che furono anche poi scrittori dei film che vennero tratti dai loro romanzi all'inizio degli anni 60, che raccontavano appunto storie di giovani operai, di giovani proletari nella Gran Bretagna del dopoguerra, no? Poi c'è stata anche una seconda ondata, ci sono stati gli Irving Welsh, ci sono stati gli Anthony Cartwright, che era qui l'anno scorso, presentavo io appunto, momento imbarazzantissimo perché sono un suo grandissimo fan, quindi mi sono trovato in una situazione scomoda, però io mi sono chiesto, noi Uming, ecco, quantomeno, cioè possiamo in qualche modo essere associati a questo tipo di letteratura? Sì e no, non riesco a darmi una risposta netta. Innanzitutto ho ripensato un po' alla nostra produzione e mi sono detto, ma noi abbiamo sicuramente fatto delle scelte di un certo tipo nel raccontare la storia, varie epoche storiche, cioè abbiamo sempre scelto delle angolazioni dal basso e questo sicuramente significa qualcosa. Però non necessariamente i personaggi, i protagonisti delle nostre storie, dei nostri romanzi appartengono alla classe operaia, alla classe lavoratrice. Alcuni sì, alcuni no. Spesso, anzi, i punti di vista sono variegati, sono diversi. E forse la cosa più importante è che siano tanti punti di vista. Ma questo poi ci arrivo, in fondo, su che cosa secondo me al cuore è Working Class. È qualcosa che ha a che fare, forse prima ancora che con la classe, proprio appunto col tipo di storia e la modalità con cui si raccontano le storie. Appunto una definizione di working class vorrebbe che, almeno ho letto Prunetti, ecco quello che dice Prunetti, che comunque il mentore, vorrebbe appunto una storia che viene dalla classe e che la racconta in qualche modo, e che la racconta in un certo modo, no? Quindi una storia di lotta, una storia di emancipazione, una storia di consapevolezza acquisita con tutte le difficoltà del caso, tutte le contraddizioni del caso, eccetera, eccetera. Fatta da un autore o un'autrice che viene dalla classe. Okay? E io immediatamente, appunto, provando a spostare questa definizione su di me, mi sono trovato in difficoltà, onestamente. Primo perché, come ho detto, le storie che abbiamo raccontato sia come collettivo di scrittura sia come singolo non sono propriamente ascrivibili a questo insieme. Primo. Secondo, io, se penso a me, posso dirmi un autore working class? Anche qui faccio fatica, perché si dà il caso che io, dal punto di vista, diciamo, di classe, sia un ibrido. Nel senso che sì, sono quelle storie familiari che forse insomma, succedevano in certi casi in una particolare epoca storica, fine anni 60, primi 70, però io sono figlio di un operaio nato in campagna, che veniva dalla campagna e poi approdato alla fabbrica, e invece di una borghese. Mia madre scelse di sposare un operaio, abdicò alla sua classe sociale, veniva dalla borghesia della provincia italiana, era figlia di un medico, rinunciò a tutti gli agi della classe, rinunciò alle rendite, a tutto, collettivizzò, si diceva così all'epoca, e quindi poi vi lascio immaginare, insomma, venne più o meno rigettata, respinta dalla famiglia, eccetera. E non fu un incontro facile, non fu un incontro semplice, non è una favoletta, ecco, volemmosi bene, le classi che si incontrano. No, ci furono attriti, fu difficile tutto questo. Un aneddoto, per esempio, che mi è stato raccontato, che credo la dica lunga, ero ancora nella pancia, sarei nato di lì a un mese, quindi era il Natale del 1972, e mia madre se ne tornò da sua madre, un classico, e ricevette una telefonata da mio padre che le disse: devi scegliere tra la borghesia e la dittatura del proletariato. Come resistere a una dichiarazione d'amore di questo tipo? E in effetti mia madre scelse e tornò, e poi ci ha messo 5 anni di psicanalisi per liberarsi dalla dittatura del proletariato, ma questa è ancora un'altra storia. Però ecco, per dire che la working class non è tutta rose e fiori, anzi, ecco, ci sono modelli maschili pesanti da affrontare, un lavoro su di sé che delle volte riesce, tante volte no, eccetera. E soprattutto appunto le donne hanno dovuto lavorare in questo senso. Quindi io ho avuto sicuramente, ho sicuramente un'estrazione working class dal punto di vista sociale, cioè in casa mia è mai girata la grana, no? Però ho avuto un input culturale borghese. Io ho fatto il liceo classico come mia madre, ho fatto l'università, facoltà umanistica, infatti sono uno scrittore squattrinato come tanti, e quindi io sono effettivamente un incrocio, un ibrido, come ho detto. Faccio molta fatica a mettermi da una parte o dall'altra. Poi è chiaro che alla fine è la materialità che fa la differenza, io credo, e quindi ovviamente tendo a sentirmi più da una parte, però non posso fingere di essere quello che non sono. Ecco. Non ho fatto l'operaio nella mia vita. Ho fatto 1000 lavoretti, anch'io, per campare, prima di fare lo scrittore, però sicuramente, ecco, tradisco un po' la definizione, quantomeno. E allora ho cominciato a cercare anche dei precedenti letterari. Ho detto, vai, ma i big della letteratura, per esempio, cioè andiamo lì a vivisezionare un po', no? E mi sono ricordato di una cosa, per esempio. Mi sono ricordato che per tanto tempo, nel corso dell'Ottocento, quantomeno la seconda metà dell'Ottocento, Charles Dickens era considerato il romanziere dei ceti bassi del Regno Unito, no? Era quello che per primo aveva deciso che raccontava le storie dei poveracci, gli orfani, e le orfane. Per la prima volta, appunto, il romanzo borghese non parlava più solo di borghesi, ma parlava anche dei lavoratori, dei poveracci, dei bassi fondi di Londra, eccetera. Charles Dickens, sempre per guardare anche l'autore, non veniva da una famiglia working class, veniva dalla piccola borghesia. Mi sembra che suo padre facesse l'impiegato della marina, però finì in galera per debiti. Quindi la famiglia ebbe un tracollo e il giovane Charles finì in una workhouse. Cioè fu davvero uno di quei bambini che andavano a lavorare in qualche modo. Quindi raccontava anche delle storie che aveva vissuto, e per questo sono forse anche così vivide le sue storie. Quindi per tanto tempo è stato considerato in questo modo. Poi nel Novecento arrivò un signore che si chiamava George Orwell, che disse: compagni, non avete capito un cazzo. No. Se andiamo a leggere le storie di Dickens, noi scopriamo e ci rendiamo conto facilmente che non sono storie di lotta di classe. Lotta di classe manca, sono storie di riscatto individuale, di appunto poveracci che individualmente ce la fanno per buona volontà, perché fanno del bene in una certa circostanza e poi gli torna indietro quando sono grandi. C'è spesso un mentore o una mentore che borghese che li trae fuori dalle peste, eccetera eccetera. Dice: dov'è qui la classe operaia? Dov'è la coscienza di classe? Non c'è niente di tutto questo. In realtà c'è un romanzo addirittura, Hard Times, tempi difficili, in cui c'è l'episodio di un sindacalista che va ad arringare gli operai fuori da una fabbrica ed è rappresentato praticamente come un demagogo, un arruffapopolo. Okay? E Orwell ci ha aperto gli occhi su Dickens. Orwell, un altro borghese, che però ha fatto dei reportage, chiamiamoli così, ante litteram, sulla classe operaia e addirittura sul sottoproletariato. Siamo senza un soldo a Parigi e a Londra, ma anche appunto sulla working class, sui minatori del nord dell'Inghilterra. Qua al banchetto c'è un libro pubblicato da Alegre di Orwell, che è La strada di Wigan Pier, che è un libro fenomenale. Posso fare questo spot? Sì. La prefazione l'abbiamo scritta io e Alberto, quindi è uno spot al quadrato. E quindi lì abbiamo per esempio un borghese che si è calato completamente dentro la classe, è andato dentro quelle miniere, l'ha raccontata da dentro, dalla pancia, la classe. Poi è partito per fare la guerra di Spagna, finito di scrivere questo. Poi mi sono venuti in mente che negli anni 50, mentre appunto i vari Silito e Story scrivevano le loro storie appunto di giovani proletari, c'erano in Inghilterra anche gli Angry Young Men, i giovani arrabbiati, no? Che rompevano proprio con la classe d'appartenenza. Erano borghesi, però appunto la società post-bellica, per bene e per benista, non la sopportavano più. E mi è venuto in mente un autore che si chiamava John Wayne, ma non scritto come l'attore, scritto W-A-I-N, che nel 1953 esordisce col suo romanzo Harry on Down, Giù con la vita, è tradotto in italiano e pubblicato da Einaudi, che è un romanzo fenomenale. È la storia appunto di uno che si laurea a Oxford, quindi non ci sono dubbi sulla sua classe di appartenenza, e il giorno dopo decide che lui la strada che la società gli ha tracciato non la vuole percorrere, manda al diavolo tutti e si mette a lavorare, a fare i lavori più umili. Entra totalmente dentro la working class, fa il lavavetri, fa il buttafuori, fa l'autista, proprio quelli con la livrea per un riccone, a un certo punto finisce anche in un giro di traffico di stupefacenti, eccetera. E al tempo stesso c'è anche una storia d'amore, me l'hai fatto venire in mente parlando appunto del ci vuole la storia d'amore, sì, c'è una parte anche romantica, rosa ovviamente, lei però non è, diciamo, una gentildonna, ecco, è più o meno una escort, una mantenuta, ecco, dell'epoca, che sta con un riccone. E i suoi ex compagni di facoltà, quando lo incontrano, lo accusano, gli dicono: tu hai tradito la tua classe, tu hai rinunciato al tuo privilegio, stai pulendo le padelle in un ospedale, fai l'inserviente in un ospedale. Questi sono lavori che devi lasciar fare a chi è nato per farli, ok? Gliene dicono di tutti i colori, ovviamente finisce in rissa, vabbè, una scena molto forte. E anche in quel caso mi sono detto: dove lo collocherei un romanzo come questo? E effettivamente, insomma, il dubbio mi è venuto, ecco. Una risposta parziale su quella che è la produzione nostra e mia, insomma, mi viene dalla, come dicevo all'inizio, forse dall'approccio, dal tipo di storia, da come la si racconta. C'era un vecchio rivoluzionario, un vecchio bolscevico, che si chiamava Alexander Bogdanov, che diede vita, insomma, nei primi anni della rivoluzione al Proletkult, a un movimento culturale per la rifondazione della cultura, per una cultura proletaria, il quale diceva: la cultura proletaria, la letteratura proletaria, non è che deve raccontare per forza delle mani callose dell'operaio, no? Come sarà poi col realismo socialista di lì a pochi anni. No, non è questo. È cosa scegli di raccontare, come scegli di raccontarlo. Faceva questo esempio, diceva: una poesia può raccontare la luce della luna, no? Oppure la luce delle stelle, fa differenza. Raccontare la singolarità o raccontare la collettività. Ecco, questo fa differenza. Allora, partendo da lì, mi viene da dire, per esempio, che il genere letterario per antonomasia è il poliziesco, noir, detective story, eccetera. E noi siamo pieni, zeppi in Italia, di romanzi di questo tipo, di romanzi in cui le indagini vengono svolte da degli sbirri buoni, ok? E tendenzialmente anche un po' di sinistra. Che poi, boh, vabbè, io... Vabbè, forse non ne ho frequentati abbastanza, però mi lascia sempre perplesso questo, no? Perché poi spesso traggono anche delle fiction, no? Poi li vedi in TV, dici, sono tutti così open-minded, così progressisti, eccetera. E siamo pieni di questa roba qua. Piace, evidentemente. Io non scrivo detective story, però mi rendo conto, ho pensato che l'ultimo romanzo collettivo che ho scritto con i miei soci è stato UFO 78, qualche anno fa, in cui effettivamente una detection c'è. Chi fa l'indagine, però? L'indagine viene fatta da prevalentemente tre personaggi, uno scrittore in crisi, di mezza età, un'antropologa, una giovane antropologa dell'università e una guardia forestale di estrazione proletaria. Quindi diciamo sono due borghesi, un proletario, più una comunità tutto intorno, ognuno contribuisce insomma con un pezzo. E mi sono accorto che forse queste sono le stelle di Bogdanov, cioè che invece che raccontare l'eroe o l'eroina singolo, no? Che risolve il caso perché, no? In realtà c'ha una grande intelligenza, una grande empatia, eccetera. Cioè il singolo alla fine, genio in qualche modo. Torniamo sempre al vecchio schema Sherlock Holmes o Miss Marple, appunto, che erano borghesi fino al midollo, no? Al di là dell'estrazione che può avere il detective di turno. Forse allora il passaggio che può essere interessante e anche identificante, diciamo, per un tipo di letteratura che definirei appunto di classe, ma in questo senso politico, ok? È proprio questo, cioè pensare che le storie possono essere raccontate in un modo diverso, non individualistico, ma collettivo e collettivistico, ecco, che far vedere che la storia viene fatta da una comunità, che il caso, quello che sia, viene risolto da una collettività, da una sinergia, da una collaborazione, ok? E non dal genio individuale. Forse è questo. Visto che si parla di romanzo noir, devo difendere un po' il genere perché ci campo, dunque, come traduttore, visto che traduco uno scrittore che forse che conoscete un pochino, che si chiama Andrea Camilleri, ho tradotto tutta la serie di Montalbano appena. È appena uscito in Francia Ricardino, l'ultimo della serie, e di fatto c'è Montalbano potrebbe rassomigliare più o meno a questo personaggio che dici tu, ma diciamo che lui quando c'è stato il G8 Montalbano ha pensato di dare le sue dimissioni comunque, e dunque non è proprio un tiepido, non è completamente tiepido, diciamo. E poi quello che mi piace in Montalbano è anche il fatto che lui non cerca più di tanto di beccare il colpevole e di mandarlo in galera, ma cerca a capire che cosa è successo, perché uno è stato ammazzato, e non per riconsegnare il colpevole alla giustizia come istituzione, ma di rimettere un po' di giustizia nel mondo. Non è esattamente la stessa cosa, perché ogni tanto lui più o meno fa delle cose che non sono proprio di un legalismo scatenato, si può dire. E quello che mi piace in Montalbano è che è un poliziotto perennemente in crisi, e anche nei miei romanzi, quando ho sempre spiegato che quando in Francia diciamo le roman policier, il poliziesco, e io in questa definizione c'è una parola che non mi piace, policier, dunque il poliziotto. Il romanzo nel romanzo poliziotto quello che non mi piace è il poliziotto. E di fatto i miei poliziotti sono, quando uso dei poliziotti, perché non c'è sempre dei poliziotti nel mio romanzo, sono sempre in crisi, sono sempre, pensano a dare le dimissioni, sono completamente pazzi, o cioè, no, non riesco a avere un vero poliziotto come lo descrivi tu, uno moderatamente di sinistra, tranquillo, e che fa il suo lavoro senza farci troppo domande. Il genere noir è molto utile per vedere le piaghe della società, secondo me, perché quando si arriva a un crimine, la differenza tra il genere del come si dice il romanzo poliziesco classico tipo Agatha Christie, ci sono cinque signore di una certa età che stanno prendendo il tè, poi cade un cadavere sulla tavola e bisogna sapere presto chi ha ammazzato, perché dopo mandiamo il criminale in galera e possiamo ricominciare a bere il tè tranquillamente. Questo tipo di romanzo è il romanzo del ritorno all'ordine. Invece nel noir uno si chiede non tanto chi è che ha ammazzato, ma perché è stata ammazzata. Quella situazione ha prodotto questo. Quella situazione è sempre una situazione sociale con problema. Molto presto ci si ritrova con problemi di diseguaglianza, e la lotta di classe non è mai molto lontano. Dunque, questo è il tipo di romanzo noir che mi piace, che mi piace scrivere e che mi piace tradurre. E quello. Non ho tradotto soltanto Camilleri, e poi stavo pensando che più volte ho cercato a fare venire Andrea in certe situazioni, ma sono sicuro che sarebbe venuto qui, perché lui aveva un debole aveva veramente un debole per la classe operaia. Mi ricordo in uno dei romanzi Montalbano si rifiuta di andare a mandare i suoi poliziotti a picchiare i lavoratori di una fabbrica che sta chiudendo. Dunque, qui avrebbe avuto tutto il suo spazio per lui. E, dunque, volevo... Penso che basta. Abbiamo ancora tempo? Sì. Un giro veloce sul vostro lavoro all'interno dell'editoria, insomma. e siccome poi abbiamo coniugato il verbo al futuro, noi saremo tutto. Che prospettive ha anche questo tipo di letteratura e questi tipi di ragionamento che stiamo facendo adesso? Non credo di avere una risposta soddisfacente. In realtà ho un sacco di dubbi sul nostro lavoro, anche sulla nostra utilità. Ecco, nel senso che tante volte, insomma, quando uno comincia dice ok, faremo un sacco di cose, poi diventa sempre più difficile. Io credo che oggi come oggi la nostra professione sia complicata, cioè di decidere come farla. in base a quello che scegli i tuoi destini cambiano. Io me ne sono reso conto, insomma, perché adesso lo dico senza, non voglio fare la vittima, non mi interessa, tutto appunto ho detto dipende dalle scelte che si fanno, quindi uno poi si tiene le conseguenze, ci mancherebbe. Però io mi rendo conto che tantissimi colleghi e colleghe certe cose non le dicono, sono magari presentissimi in determinati frangenti, in determinate circostanze, sono in grado di ingaggiare delle querelle e dei duelli perfino con esponenti del mondo politico sui social, botte, risposta, non perdono occasione, insomma, di raccontare se stessi e il loro impegno per questo o quell'altra causa. E però io lo dico sinceramente, proprio senza rancore verso nessuno, ogni giorno che passa faccio sempre più fatica a considerarli colleghi e colleghe, nel senso che mi sento molto distante da questo modo di interpretare questo mestiere. Ecco, credo che dovremmo essere molto più attenti e molto più concentrati sul nostro lavoro, sul tipo di storie che scegliamo di raccontare, appunto, e molto meno sui personaggi che decidiamo di incarnare. Sono molto più importanti i personaggi che costruiamo sulla pagina. Ecco, io la vedo così. Dopodiché credo che sia molto importante che il lavoro di scrittura sia affiancato anche da altri lavori dentro il settore editoriale. Serge parla a ragion veduta perché appunto è un grande traduttore di lunga data e questo fa tanta differenza. Io sono un traduttore da poco, ecco, ho cominciato veramente da poco, e però per esempio mi sono reso conto che effettivamente tradurre un autore significa proprio entrare nella sua testa, entrare nel suo lavoro e conoscerlo, quindi come non hai occasione di fare semplicemente leggendolo appunto magari in traduzione. E così vale, insomma, per tutta la filiera, ecco, dell'editoria. Credo che questo sia fondamentale, cioè continuare a ragionare sul fatto che comunque è lavoro ed è un'industria in un certo senso, con tutti i mali anche di questa industria: lo sfruttamento, la difficoltà di farsi pagare, l'avere a che fare con i padroni, eccetera eccetera. Ecco, quindi per certi versi gira e rigira ci ritorni, ecco, al discorso sulla classe. Ecco, quantomeno, ecco, se invece non decidi di diventare uno scrittore di un altro tipo, ecco. Io direi che la conclusione forse del dibattito è che ci sentiamo più capaci di parlare di letteratura di classe che invece di working class. Poi devo dire che in questo momento sto lavorando forte per trovare editore per almeno due libri. Sono un libro si chiama Tronca Macchioni, il libro di Alberto, che è un bellissimo libro perché abbiamo già tradotto due Amiante e 108 metri. Io dico abbiamo perché siamo una piccola azienda, la mia moglie ed io, dunque facciamo un po' le cose insieme. E poi c'è un libro che ho scoperto che è appena uscito in Italia, che si chiama Non mi sono fatto niente, di Maurizio Gibo Gibertini, che è un libro stupendo che racconta la storia di un ragazzo degli anni 70, figlio di operai, ha fatto parte dei circoli giovanili a Milano, che si facevano delle manifestazioni con le chiavi inglesi in mano, gridando Hare Hare Hare Krishna, cioè erano giovani operai ma affascinati dalla controcultura americana e anche dell'India, anche del fumo, anche tutto questo periodo, tutto questo ambiente culturale molto, molto ricco. E secondo me è un libro molto bello perché è contrario a tutto il discorso sui famosi anni di piombo, come se gli anni 70 fosse stato soltanto un branco di cretine che hanno voluto, che erano tutti terroristi, che volevano tutti fare morire la democrazia, cioè la democrazia cristiana. E dunque, secondo me questo libro vale la pena, leggetelo, mentre io proverò a farlo pubblicare in Francia. Vorrei dire una cosa telegrafica, riallacciandomi al discorso appunto dell'appartenenza di classe, e cioè che mio padre, operaio che veniva dalla campagna, aveva delle mani come due badili, delle mani enormi. E me le ricordo fin da quando ero bambino, erano veramente impressionanti quelle mani, e sono servite in più di un frangente non solo per stringere chiavi inglesi, ma anche, insomma, con un bullone si era fatto un anello che, diciamo, ai picchetti aveva una sua utilità, e di, diciamo, luoghi come questo, diciamo, davanti alle cancelli delle fabbriche c'è stato diverse volte. Ecco, in prima fila nella sua vita quando era giovane. E mi ricorderò sempre queste mani, perché mi hanno sempre dato la sensazione di sicurezza. Ho sempre pensato che quelle mani operaie mi avrebbero salvato da qualunque casino, okay? Da qualunque situazione incasinata in cui mi fossi trovato, in qualunque conflitto mi fossi trovato. Credo che questa, al di là, diciamo, del legame sentimentale, sia anche una lezione politica. Okay? Mio padre è morto 6 giorni fa in un ospedale dell'Havana, e va da sé che questo intervento è dedicato a lui. Ci uniamo anche noi a questo ricordo. E adesso, proprio a finire di questo panel, come già annunciava Francesca, abbiamo deciso di far intervenire per ogni discussione che facciamo l'elefante nella stanza. Vogliamo far intervenire una lotta di lavoratrici femminili del tessile, e prima di farla salire sul palco, io in tutti questi anni mi sono chiesta se queste lettere di licenziamento fossero arrivate invece che a una fabbrica così prevalentemente maschile, fosse stata una fabbrica prevalentemente femminile, cosa sarebbe successo, no? E allora voglio anche ricordare che in questi 3 anni e mezzo non ci sono soltanto questi lavoratori che resistono, ma ci sono anche tante donne, compagne, sorelle, mogli, figlie che resistono e che spesso non si vedono, che sono in silenzio, che li sostituiscono quando continuano a fare i turni qua quando sono nei cortei, quando non mancano da giorni, insomma, e che sono importantissime e preziose. E in questi anni abbiamo anche incrociato la vertenza delle lavoratrici del Marrone di Marradi, che non sono completamente riuscite a vincere la loro battaglia, è fatta di una cosa assurda di portare i marroni dall'Appennino al sud e poi dal sud al Belgio e poi riconfezionarli da un'altra parte. Cioè anche questo modo di produrre che, oltre a creare speculazione e sfruttamento, tira fuori delle cose assurde, e loro non hanno resistito. E voglio ricordare Marradi perché ultimamente sull'Appennino c'è stata una grossa devastazione, forse non tutti la conoscono perché non c'è stata troppo attenzione. Marradi in 2 anni ha avuto 5 catastrofi, è un paese completamente isolato e che oltre alla difficoltà legata al lavoro anche la difficoltà di vivere quotidianamente. Quindi insieme a queste lavoratrici voglio ricordare anche dei territori che sono allo stesso tempo sfruttati. Farei salire l'area Stefania della Perla. Grazie di essere qui. Grazie a voi. Altre perle sono in mezzo al pubblico, quelle rumorose. Vabbè, è molto emozionante essere qua, per cui adesso mi devo un attimo assestare. Ed è un grande onore per noi essere state chiamate qui oggi, per cui chiaramente vi ringraziamo di questo invito. La storia della perla è una storia molto tormentata in realtà da tanti anni, però non vi preoccupate, non vi racconterò tutti i tormenti, non ne abbiamo il tempo. Però considerate un'azienda, la Perla probabilmente la conoscerete tutti, insomma comunque in tanti, perché è un'azienda che comunque è sul mercato già dagli anni 50, è sul mercato globale dagli anni 80 ed è un marchio di altissimo livello di produzione di corsetteria, di lingerie, affermato a livello mondiale, un marchio accessibile solo per una clientela molto abbiente e che si è affermato negli anni proprio grazie alle capacità e alle qualità artigianali che sono state tramandate nei decenni. È nata negli anni 50, avremmo dovuto compiere 70 anni nel 2024, e invece nel 2024 l'azienda è stata chiusa, non definitivamente per fortuna, per una serie di traversie che adesso proverò a riassumervi molto brevemente. Allora, considerate una prima fase di sviluppo fino agli anni 80, per cui la Perla arriva a contare più di 1.500-1.600 dipendenti solo nelle divisioni intorno a Bologna, un'azienda bolognese. Però, ahimè, iniziano quando il proprietario, che è il figlio della fondatrice, Ada Masotti, Alberto Masotti, decide di vendere l'azienda, che già sta subendo una serie di ristrutturazioni importanti, cioè che significa licenziamenti importanti, decide di cedere l'azienda al primo fondo della nostra storia, un fondo americano. Da lì iniziano tutta una serie di problematiche che potrete ben immaginare, perché la strategia di questo fondo, nonostante si tratti di un fondo che gestisce marchi del lusso, è quella di esternalizzare. Quindi capi che sono prodotti con un addestramento, un affiancamento delle lavoratrici di anni, perché non sono tecniche che si possano imparare in pochi mesi e neanche in corsi fatti così velocemente. Ci sono affiancamenti di anni. Alla Perla una volta c'era una scuola internamente, e tutte le mie colleghe, anche che sono qua sedute, sono forse l'ultima generazione che ha avuto. Io mi tengo un po' fuori perché sono un'impiegata e non ho la loro maestria artigianale. Si sono formate in anni di affiancamento, in anni di scuola, E purtroppo questo l'ulteriore passaggio generazionale non è avvenuto, perché diciamo dal 2007 dal 2010, da quando il fondo JH Partner porta prima l'azienda con i libri in tribunale dopo soli 3 anni di gestione, l'azienda viene rilevata da Silvio Scaglia, che fino a poco prima si era occupato di telefonia. In realtà anche Scaglia poi ha un fondo, per cui anche Scaglia sostanzialmente opera una gestione completamente miope sul nostro marchio. Quando sono invece proprio gli anni in cui sarebbe fondamentale che entrassero nuove persone per poter consentire effettivamente un nuovo addestramento per un ricambio generazionale, di fatto da Scaglia in poi l'azienda entra in una serie di ristrutturazioni, quindi procedure di licenziamenti collettivi. Anche Scaglia, nonostante l'investimento dichiarato di 600 milioni di euro, porta l'azienda sul baratro e ci vende per la stampa estera, racconta per veramente una cifra irrisoria, per un euro. La stampa inglese riporta che questa transazione è avvenuta in questo modo, a un fondo di investimento anglo-olandese che si chiama allora Sapinda, adesso si chiama Tennor, ed è presieduto da un tal Lars Windhorst, che è un finanziere che ha una fama internazionale pessima, lo chiamano il pirata della finanza. In sostanza noi dal 2018 veniamo acquisiti da questo fondo di investimento e da allora fino a fine 2023 assistiamo a un progressivo, non solo una totale mancanza di investimento nelle attività produttive, e badate che il marchio La Perla è un marchio che non ha mai smesso di essere richiesto proprio da tutta quella clientela che se lo può permettere e che tuttora continua a mandare mail, continua a, in tutti i modi a contattare le persone che appunto lavoravano nell'area commerciale per capire dove si possano trovare ancora i nostri capi, per cui non si tratta di un problema legato all'obsolescenza del prodotto e tantomeno all'obsolescenza delle lavoratrici che lo producono, perché appunto si tratta di un'azienda unica nel mondo per quel tipo di lavorazioni e per la qualità con cui quelle lavorazioni vengono fatte. Invece purtroppo anche nell'era Scaglia l'obiettivo viene mancato, veniamo ceduti a questo fondo che progressivamente disinveste. Arriviamo al punto che disinveste a tal punto che non solo smette di pagare i fornitori, quindi fornitori di tutti i materiali che potete immaginare, tessuti, accessori, ma anche tutti i materiali di lavoro, perché La Perla è un'azienda complessa, non c'è solo la parte di manifattura, ma è tutto il ciclo di produzione, dalla prima idea dello stile fino a tutto lo sviluppo del campionario, della prototipia, il ciclo del prodotto e anche la commercializzazione, la comunicazione, l'e-commerce. Dentro c'è veramente tutto. Ci sono anche i negozi, avevamo 150 negozi, punti vendita proprio La Perla nel mondo, che uno dopo l'altro vengono chiusi per insolvenza, perché il fondo non paga gli affitti. Non paga gli affitti, non paga i fornitori, non paga neanche l'infrastruttura informatica, che come sapete in un'azienda anche con tante mansioni interne è la struttura proprio che rende possibile i flussi di lavoro, ma anche banalmente la posta elettronica. Non riusciamo più ad accedere alle nostre caselle email, non riusciamo più a... Alla fine non riusciremo neanche più a timbrare il cartellino e non avremo neanche più le pulizie interne e l'assicurazione. Adesso vi sto facendo un riassunto molto veloce. Chiaramente in questi mesi non è che non succede nulla da parte nostra. Io sono una rappresentante sindacale per la Filtem di Bologna, che è la categoria dei tessili. E da subito, quando cominciamo a vedere, perché la Perla è sempre stata fortemente sindacalizzata, e abbiamo anche noi un addestramento alla protesta tale per cui abbiamo anche una stanza dell'azienda che è tutta piena dei nostri striscioni, abbiamo un reggiseno gigantesco, stupendo, abbiamo di tutto, perché siamo abituate che quando succede qualcosa si esce, abbiamo anche delle belle latte, dei bidoni di latta con delle masse per cui facciamo un sacco di rumore. Abbiamo già i nostri, abbiamo un canzoniere di più di 70 canzoni che le nostre creative producono sull'aria di canzoni note, un po' ci piace pensare come facevano le mondine, senza saperlo, fra l'altro, ma prendiamo la stessa direzione. Non ci applaudite, se no iniziamo a cantare, dopo è un guaio. Tendiamo a... insomma, iniziamo da subito a coinvolgere le istituzioni, perché nonostante non sia stata aperta nessuna procedura di licenziamento, ci rendiamo conto che stiamo andando a sbattere contro un iceberg enorme, perché vediamo proprio l'azienda spegnersi progressivamente, le colleghe, ed è talmente triste essere all'interno dove da una parte c'è una domanda fortissima da parte dei clienti, dall'altra c'è l'impossibilità, io lavoro nella comunicazione, anche proprio di produrre una campagna pubblicitaria, di fare una foto, addirittura ci ridurremo a fare delle foto noi con i cellulari, quando prima avevamo fotografi di livello mondiale, con campagne bellissime che tante persone ancora ricordano. Insomma, passano i mesi. Sì, no, ma dopo poi, vabbè, ditemi se sto andando troppo, stringo, ok. Insomma, protestiamo un sacco e si arriva però al punto che l'azienda smette di pagarci gli stipendi, per cui vari viaggi al ministero, a vari buchi nell'acqua al ministero del Made in Italy, dopodiché succede appunto che l'azienda chiude. Chiude e intanto noi ci mettiamo tutte insieme per far causa all'azienda e apriamo questa procedura di immissione al passivo. In questa fase alcune colleghe che avevano già creato dei cartelloni con questo simbolo molto semplice di donne che si tengono per mano e all'interno fra di loro c'è questo cuore che le unisce, diventa il simbolo della nostra lotta, per cui ad alcune colleghe viene l'idea che mentre noi siamo in tribunale di ritagliare nei pizzi così avanzati là inutilmente nell'azienda che praticamente è moribonda, cominciano ad attaccare queste bamboline sulle magliette a fare il primo banchetto davanti al tribunale che ottiene un grande successo, per cui da lì in poi l'azienda chiude. Quindi c'è tutto un percorso che affiancate dai sindacati portiamo avanti, per cui adesso l'azienda, che poi di fatto sono tre aziende perché Scaglia ci divise per potergli consentire di delocalizzare il marchio a Londra. Questo ha causato un'infinità di problematiche, per cui noi adesso ci troviamo con il marchio a Londra, una parte di azienda in amministrazione straordinaria, una parte in liquidazione, per cui anche tutti gli ammortizzatori sono sfasati. Siamo in questo momento in vendita, stiamo aspettando di sapere chi ci acquisterà e se ci acquisterà, che cosa farà, perché chiaramente la nostra paura più grande è che poi taglino ancora, come abbiamo purtroppo esperienza, da 1500 siamo meno di 200 adesso. Però insomma, in tutta questa situazione problematica, dolorosa e considerate che siamo 99% donne e tutte dai 50 anni in su mediamente, non ci siamo mai date per vinte, quindi da una parte l'avvertenza che è proseguita anche grazie alla caparbietà delle nostre sindacaliste, dall'altra queste magliette del primo banchetto sono diventate il manifesto della nostra lotta e poi sono diventate un'associazione, una PS, che si chiama Uniche Unite. Perché, e allora prima quando Francesca nella sua introduzione ha parlato di un vostro slogan che me lo sono scritto, siamo diversi ma non divisi, è esattamente il concetto che ha portato noi qui oggi e ci porta a continuare a credere in questa lotta sostanzialmente, che non è solo... è per il nostro posto di lavoro, per la nostra azienda, ma è diventata una lotta di respiro più grande, per cui ci piace essere qui e ci piace che si crei convergenza sostanzialmente. È stata veloce. Grazie, siamo in ritardissimo, quindi buon appetito per la cena e poi ci troviamo qua per proseguire con la lezione cantata sulla musica popolare.